La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. Un saluto a tutti, un saluto da Franco D'Assisti. Eccoci qua, la nostra ora di cinema su Radio 24, La Rosa Purpurea, il nostro magazine che tutte le settimane, tutti i weekend vi racconta tutto quel che c'è di nuovo sul grande schermo e oltre. Ed è una settimana ancora molto intensa, 6 nuovi film nelle sale, titoli anche molto molto importanti, molto attesi, con la guerra e la caccia a Bin Laden che arrivano sullo schermo, con Fabio Volo che torna, tra poco lo sentiremo, in studio illegale, con Russell Crowe che è attualmente impegnato nei Miserabili, che arriva anche in Broken City. Insomma, tutto uno sfoggio di attori, autori e storie, perché abbiamo anche i Re della Terra Selvaggia, sorpresissima delle nomination agli Oscar. Insomma, parleremo di tutto questo qui alla Rosa Purpurea. Cominciamo a condensare i contenuti nei nostri titoli di testa. Un detective con un passato oscuro, un sindaco senza scrupoli, una moglie che parla troppo. Sono i personaggi di Broken City, noir metropolitano sullo sfondo di una New York a tinte fosche, con Russell Crowe e Mark Wahlberg. Un avvocato rampante, schiacciato dal vuoto della Milano da bere, è svegliato dall'amore per la bella collega francese. È Studio Illegale, commedia degli inganni tratta dal libro di Federico Baccomo. Alla Rosa Purpurea, incontro col protagonista Fabio Volo. La più grande caccia all'uomo della storia dell'umanità. L'ossessione di un paese che travolge regole e trattati. L'uccisione di Osama Bin Laden rivive in Zero Dark Thirty, il nuovo film di Kathryn Bigelow. È la rivelazione di questa stagione. Camera d'oro a Cannes, premio a Sundance e ora 4 nomination agli Oscar. È Re della Terra Selvaggia, la commovente storia di una comunità estrema della Louisiana e di una bambina troppo grande per essere piccola. Show me, tiger, how to kiss you. Questa bel motivetto molto, molto francese, non, al di là della lingua, anche come atmosfere, è anche molto sensuale, ci introduce nel film che apre la nostra rassegna di questa settimana, ovvero Studio Illegale. Studio Illegale è il nuovo film di Umberto Carteni, con Fabio Volo protagonista, insieme a Ennio Fantastichini, a Nicola Nocella e a Zoe Felix. Una commedia, forse una commedia sociale potremmo definirla, perché racconta uno spaccato della nostra società e del nostro vivere, che è quello che una volta si sarebbe chiamato della Milano da bere, insomma, giovani professionisti, rampanti, arrivisti, vogliosi di successo e di tutto quello che il successo si porta dietro, belle donne, feste, tirar tardi fino all'alba con annessi e connessi. In mezzo a questo identikit c'è la figura di Fabio Volo, avvocato rampante, dicevamo, ormai non più proprio giovanissimo, ma insomma, che lavora in uno studio milanese molto rinomato di diritto internazionale. Il suo capo, Ennio Fantastichini, lo vessa, ma gli promette anche che potrebbe diventare socio se riuscisse a piazzare un colpaccio. Le sue giornate, appunto, sembrano tutte uguali, il copia e incolla con i documenti per far sembrare un contratto per una compagnia che magari si occupa di veterinaria, lo stesso contratto che si potrà usare magari per una casa farmaceutica. Hai fatto copia e incolla da un altro contratto? Copia, incolla, trova, sostituisci, siamo nell'era del computer, caro, dai, su. Sì, scusa, però è... cioè, qua sono allevamenti equini, cavalli. Appunto, allora cosa fai? Vedi, qua. Trovi il cavallo e lo sostituisci col farmaco. Abbiamo fatto un piccolo adattamento, tanto finché non ci sediamo a un tavolo non sappiamo neanche di che cosa si parla. Insomma, le giornate proseguono così, soldi non ne mancano, la vita da single regala soddisfazioni abbastanza effimere, non si va molto oltre la hostess del centro congressi, ma sta per arrivare sulla vita di Andrea un vero e proprio ciclone. Sì, perché a un certo momento, complice il suicidio di un suo collega, ad Andrea Andrea viene affidato un compito molto importante, una trattativa che avrà il suo culmine nell'acquisizione di una ditta farmaceutica da parte di una multinazionale di Dubai. È proprio lì che Andrea si troverà di fronte un osso molto molto duro, l'avvocato di controparte, una bellissima e bravissima avvocata francese, Emily, che metterà a nudo in un attimo tutta la sua mediocrità. Farò delle note per semplificare il vostro lavoro. Francamente, oggi di più non potevamo fare. Au revoir, mademoiselle Chaumont. Arrivederci. Questa me la devi trombare prima della conclusione delle trattative. Insomma, l'umiliazione, l'essere esposti al pubblico ludibrio dei piani alti funge da molla in Andrea, che all'inizio prende la missione come indicata dal suo capo, come una missione di lavoro, ma poi pian piano, entrando nelle maglie di questa donna così apparentemente fredda ma anche molto affascinante, si rende conto di avere di fronte una persona, insomma, in parole povere, se ne innamora, ma chissà che gli inganni del lavoro non si trasferiscano pari pari anche nell'amore. Ma non capisco che problema sei, scusa. Niente, che non puoi pretendere che sia anche entusiasta tutto qua. Lo vedi? Lo vedi come sei? Cerchi sempre un motivo per non farle le cose. Andrea, quando sei arrivato qui 5 anni fa eri un leone. E invece adesso ti stai spegnendo. E che non hai più voglia di combattere. Non hai più quello sguardo da tigre. Ma non ero un leone. E spendiamo un minuto per cercare di condensare criticamente il film prima di sentire fra poco Fabio Volo. Fabio Volo è un personaggio molto forte, talmente forte che gli capita spesso di mangiarsi un po' il film, di mangiarsi un po' il personaggio. Lo spettatore rivede in ogni personaggio Fabio Volo, e questo è da una parte un grande vantaggio, perché il suo pubblico sicuramente lo segue sempre con grande fedeltà, e significa anche avere una propria personalità molto forte, certo difficilmente declinabile al personaggio, al copione, alla sceneggiatura che c'è sotto le sue mani. Qui non abbiamo particolari colpi d'ala nella regia di Umberto Carteni, anche se il racconto di una Milano che anche nel 2013 ricorda quella anni 80 e 90 appunto da bere, come recitava un famoso spot, è sicuramente un racconto azzeccato, una Milano ripresa senza paesaggi scorci da cartolina, una sorta di enorme non luogo nel quale si svolge a volte vacue le vite dei protagonisti. Però forse quello che manca a questo film è un po' uno scatto drammaturgico, narrativo, che lo porti ad essere empaticamente in collegamento con i suoi spettatori, anche se, lo ripetiamo, sicuramente è un affresco più che di una generazione, di una situazione molto presente nella nostra società, o almeno in un segmento della nostra società. Lo ricordo, tratto tra l'altro, Studio Illegale, dal romanzo omonimo di Federico Baccomo. Io come ti amo, non è possibile. Sono molte le chicche nella colonna sonora di Studio Illegale, anche Domenico Modugno. Abbiamo detto appunto allora di questa nuova commedia con Fabio Volo protagonista, che segue Il giorno in più, che segue La febbre, e nelle quali Fabio Volo ha interpretato un po' quello che era il mood del momento. Poteva essere il precariato, la carenza di orizzonti di vita nella febbre, poteva essere la difficoltà di innamorarsi nel suo ultimo film, precedente film, appunto Il giorno in più, e stavolta è questo rampantismo che però lascia dietro di sé molti detriti di cui il personaggio di Studio Illegale si accorge, ma alla quale non riesce a reagire fino a quando non sarà appunto l'innamoramento a svegliarlo. E allora fra poco, anzi subito, il resoconto di un incontro con Fabio Volo, Terrazza Martini, Milano, 15° piano, si domina la città, era una bella giornata di sole, sebbene invernale, con Fabio Volo orizzontalmente sdraiato fra un divano e un puff. Fabio, parliamo un po' di questo signore, no, anzi non parliamone, allora, mentre vi parlo, Fabio Volo è sdraiato con le gambe su un puff da 5.000 euro più o meno, sì. Esatto, così, qui nella Terrazza Martini, ambiente splendido, e però... Questa è la Milano qui, esattamente è la prima volta che io vengo qua, è la prima volta che vengo qua. Non a Milano, qua, no, in questa terrazza. Sì, io sono un frequentatore di locali milanesi. Però, pensavo che... Sì. Invece qui si domina tutto, un po' come dai grattacieli del film, no? Si domina tutta la città. Insomma, ecco, vedi, Milano ai tuoi piedi. E com'è questa Milano qui, un po' da bere 20 anni dopo? Ma intanto posso dire non c'è più niente da bere qua, ragazzi. Qui sono finite le olive, sono finite le noccioline. Cioè ormai ci stiamo ciucciando il nocciolino delle olive. La Milano da bere, non lo so, io non la conosco tanto, però come nel libro e come nel film mi piaceva perché era un mondo che chi non lo frequenta lo vede sempre da lontano come una specie di l'impero da raggiungere, e poi invece quella vita lì per poter dare quell'immagine finta, diciamo, è fatta di molte piccole miserie umane, insomma, no? Cioè, dormono sotto la scrivania quando serve, non c'è sabato, non c'è domenica, quell'aperitivo lì magari è la cena, che ormai si cambiano le cene con gli aperitivi a Milano, e quindi mangiano i pomodorini che con la forchetta di plastica non riesci neanche a bucarli per prenderli, di usare il cucchiaio, insomma. E quindi era interessante raccontare appunto quella cosa lì per quello che è. Perché quell'universo però attira così tanto ancora? Beh, perché noi comunque siamo anche figli degli anni 80, 90, le famose limousine, no? Cioè, tu, quando guardi i film, vedi la limousine e dici, cazzo, la limousine. Poi vai in America e ti accorgi che la limousine, quelli fighi non l'hanno mai usata, se non negli anni 80. Adesso serve ai ragazzini per fare la festa di fine liceo o per i turisti, no? È la stessa cosa. Lì ci hanno venduto un mondo bello colorato, ma come sempre poi dentro è l'uomo che fa la differenza, per cui ci saranno persone dentro che riescono a sostenere quella cosa e viverla perché è la loro natura, e altri invece che rincorrono continuamente. Un mondo colorato nel quale, attraverso le piccole miserie umane di cui dicevi, il tuo avvocato, rampante, però non così... Se ne è già accorto. Esatto, non ha tutto quel pelo. No, perché sia nel libro che nel film non è un percorso, diciamo, quello che diciamo nella narrazione di solito viene chiamato il viaggio dell'eroe, cioè quindi vita ordinaria e tutta una serie di cose. Lui viene raccontato già in un momento in cui lui si è già accorto che c'è qualcosa che non va, che ha sacrificato la fidanzata, lo lascia perché non c'ha mai tempo, i genitori non li vede mai, cioè le zie così. E quindi lui è già cosciente, solo che quando tu sei lì è come quando ti stai per laureare, che ti mancano 3 esami e dici, ma forse non voglio fare sto lavoro da grande, però dici, però cazzo, ormai sembrano i matti coi cancelli, non puoi tornare indietro a 90 anni. E quindi lui invece poi alla fine lì prende coraggio e decide che vuole una, diciamo, un'alternativa diversa, che in questo caso forse è anche la vita, insomma, cioè le relazioni. Certo. E però, come recita il sottotitolo, in amore, direi anche sì, in amore, vince chi inganna. Vince chi inganna, sì. Questa io è tosta questa qui. Quando io leggo quella frase, che l'ho letta ieri per la prima volta, credo, che, cioè per esempio io la applico a in amore vince chi inganna se stesso, cioè chi inganna anche se stesso, nel senso che forse nell'amore è un po' di inganno, nel senso di favola, no? È un po' come quando uno ti dice ti amo per sempre, a bocce ferme razionalmente uno ti dice è una stronzata fotonica, perché il per sempre non esiste. Però è anche bello che tu ci credi in quel momento, no? Decidi di sposarti, magari una piccola voce dentro dice vabbè, poi male che vada, ci si separa fra 5 anni quando il bambino già non soffre meno. Però è bello che in quel momento lì tu dica ok, questo è il mio progetto famiglia e sarà per sempre, insomma. Quindi un po' di inganno è bello, però anche nel lavoro loro utilizzano questa cosa, cioè l'inganno del che poi magari lui, non so, c'ha una macchina bella, c'ha un orologio bello, c'ha socialmente viene... Però nel film, che ovviamente non svegliamo niente, ma voglio dire, il film si conclude con un compromesso, cioè c'è uno sguardo tuo che è un compromesso. L'amore è assolutamente la soluzione del compromesso, ma ormai è tutto, anche l'amore per il proprio lavoro, anche il lavoro che fai tu, il lavoro che faccio io, cioè quando tu fai un programma televisivo, nel mio caso un film, una cosa così, non è mai ciò che tu vuoi fare, ma è ciò che tu riesci a ottenere tra quello che tu vuoi fare e il compromesso che c'è intorno. Compromesso può essere dal contesto sociale, per dire, anche quello economico, dalla produzione. Tu vuoi fare un film, vuoi 20 cavalli, ti arrivano 2 pony rosa e dici vabbè, fammi la scena con 2 pony rosa. Però uno ti dice cazzo, perché non ci hai messo 20 cavalli? E dici perché tu non sai questo lavoro, che per avere 2 pony rosa ho dovuto rinunciare. È tutto così, cioè è tutto a compromessi. Credo che il grande segreto poi sia quello, riuscire a non perdere la propria identità anche compromettendosi. Senti, quanto la tua, i tuoi ruoli stanno accompagnando la tua crescita personale? Intendo dire, ma sono tutti allenamenti per me, finché poi un giorno farò il mio film, che me lo scrivo, faccio la regia così e me lo guardo solo io. No, perché la sensazione tante volte è che Fabio Volo sia talmente forte come, per, come persona, che si mangia il personaggio. Sì, nel senso, intanto non recito e quindi è già una fregatura, nel senso che poi io alla fine cerco sempre di essere il più naturale possibile, di portare il personaggio verso di me invece che io verso il personaggio. Ovviamente non è che faccio Lincoln, per cui che Lincoln in bresciano sarebbe anche brutto, però insomma faccio tutti dei personaggi che alla fine, anche se sono sempre diversi, una volta sono single, una volta sono sposato, una volta voglio fare un figlio, una volta l'idea di fare un figlio mi spaventa, però alla fine sono sempre io, sono, diciamo, credibile in quella cosa lì, in quel momento. E non lo so quale sarà il mio futuro. Poi io non ho nessun progetto di carriera, non ce l'ho mai avuto, nel senso, non è che ho idea di, da grande voglio fare quel tipo di programma televisivo, quel tipo di radio, quel tipo di film, o scrivere quel tipo di libro. Io vado al momento, quello che sento, scrivo, faccio, recito, quello così, però non ho la carriera. E quindi, come dire, ti vedremo a 70 anni. Me ne accorgo quando sarò vecchio, come diceva Steve Jobs, no? Poi tu ti giri e delle cose nella vita che hai fatto e non capivi perché, metti insieme i punti e ti trovi il disegno finale. Quindi io alla fine mi girerò e dirò, vabbè, mi sono divertito, dai. A me quello che interessa è che potersi divertire. Perfetto, ti ringrazio. Prego, grazie. Ed era Fabio Volo, allora, il nostro incontro sul puff della Terrazza Martini, studio illegale nei cinema italiani da questo fine settimana. È il momento di cominciare a giocare insieme, lo sapete, come tutte le settimane, tre frammenti di dialogo di un film che dovrete indovinare per provare a vincere proprio l'edizione in Blu-ray, anche in questo caso in Blu-ray di quel film, per il più rapido fra gli ascoltatori che indovineranno il sabato e la domenica. Cominciamo con la prima. Noi e noi soli possiamo restituirti la vita. Non hai altri che noi. Che solitudine, vero Nick? Quando si è un mostro. Fanculo! Bisogna andare un po' indietro nel tempo, non troppo, però un po', non siamo proprio in anni recentissimi. La Rosa Purpurea, @radio24.it, è il nostro indirizzo di posta elettronica per giocare, partecipare con il vostro indirizzo oltre al titolo del film, e più tardi ci saranno altre due tracce che semineremo nella nostra trasmissione. Ebbene, allora è il momento di parlare della seconda proposta sul grande schermo di questa settimana. Arriva dagli Stati Uniti, ha nel cast gente della fame e della bravura di Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones, diretto da Allen Hughes. Il film è Broken City. New York, la mitica metropoli tentacolare dove il male si annida in ogni angolo, è lo scenario appunto per questa storia, quella di Billy, ex poliziotto che dopo qualcosa che nel suo passato non è andato per le vie giuste è diventato detective privato, una sua vecchia conoscenza, il sindaco Hostetler, interpretato proprio da Russell Crowe, mentre Billy e Mark Wahlberg lo assume per chiedergli di indagare sulla moglie che sospetta lo stia tradendo. E siccome siamo in campagna elettorale, siamo vicinissimi alle elezioni per il sindaco di New York, uno scandalo sessuale non sarebbe proprio quello che servirebbe alla bisogna. E allora Billy si mette sulle tracce della donna, Catherine Zeta-Jones, scopre che ha delle relazioni fisse con qualcuno, non ne riesce ancora a scoprire la ragione nel momento in cui questo qualcuno viene, diciamo così, eliminato. E allora arriva il momento di cominciare a interrogarsi più che sulla persona da inseguire, su colui che è il mandante dell'inseguimento. E la prima a mettere sulle in campana, come si dice, no? A mettere sull'attenti un po' l'ingenuo Billy è proprio la moglie del sindaco. Lei non ha capito niente di questa storia, signor Tucker. Io scatto foto, signor Hostetler, non sono pagato per capire. Se gli ultimi 7 anni della sua vita significano qualcosa, se quella donna per cui ha smesso di bere significa qualcosa, lasci perdere. Perché se crede di indagare su un adulterio, signor Taggart, non conosce bene Nicola Sostetler, evidentemente. E invece Billy non lascia perdere, va avanti con cieca ostinazione fino a trovarsi di fronte al fatto che deve considerare profetiche le parole della donna. Voglio sapere perché mi ha assunto. Rimaniamo sulla narrativa dell'adulterio. È più sexy. E le bugie sono ancora più sexy. Ne ho sentite così tante questa settimana da bastarmi per una vita. Io ti ho assunto per indagare su mia moglie. Perché voleva indagare su di lei? Perché purtroppo non si fa gli affari suoi, ecco perché. Perché chiacchiera troppo, ecco perché. Perché fa troppe domande, ecco perché. Faresti meglio non seguire il suo esempio, potrei dover assumere qualcuno che indaghi su di te. Insomma, non tutto funziona in questo noir poliziesco, a partire dal plot, niente di originale, un film visto e rivisto, poliziotto, sindaco più o meno corrotto, ex poliziotto che ne sa tante, ma insomma deve arrabattarsi per i vicoli di New York da detective, una verità che non è la verità che ci aspettavamo, insomma è un format quasi la struttura narrativa di questo film. E poi le pur buone prove attoriali di Mark Wahlberg e di un Russell Crowe con un ciuffo improponibile come sindaco di New York vengono vanificate da una regia di una piattezza rara, senza scarti, senza illuminazioni, e sicuramente il film ne risulta fortemente penalizzato. Chiedo conferma o chiedo opinione al nostro Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. In effetti il format secondo me è proprio il format Wahlberg, cioè quando c'è Wahlberg serve un protagonista sempre con il broncio, sempre buono ma con un passato difficile, possibilmente in carcere come lui. Insomma, se non interpreta se stesso non è molto contento, infatti di solito quando gli fanno interpretare se stesso lui è così generoso da produrli pure i film, infatti qua risultate ai coproduttori. Sono d'accordissimo sulla piattezza della regia, che è il vero grande problema di questo film, anche se sono del parere che non sia così grave, dal momento che questi noir, diciamo questi hard-boiled politici newyorkesi, spesso hanno bisogno di un mestierante, cioè qualcuno che si metta al servizio degli attori e della storia, che è un usato sicuro. In questo senso forse Broken City può passare l'esame, semplicemente perché ci sono Russell Crowe e Catherine Zeta-Jones, che sembravano essere andati in pensione precocemente, viste le loro ultime performance, che qui invece se la cavano, nonostante forse scelte di look non proprio perfette, sia per lei che per lui. Mark Wahlberg che si impegna, perché insomma chiaramente se lo sente cucito addosso il film. È un film, a mio parere, per appassionati di genere, nel senso che un po' come i gialli Mondadori o i noir moderni, hanno un pubblico selezionato e fedele. Anche in questo caso bisogna essere appassionati, insomma, di questi intrighi politici, di questa città malata, di questa voglia di raccontare la politica come un eterno complotto ai danni del singolo da parte della collettività rappresentata da qualcuno che la vuole sempre ingannare. Ecco, se si è disposti a rivedere, a rileggere il mondo secondo questi schemi, allora va bene anche Broken City, non rimarrà nella storia del cinema, ma non è nemmeno così da buttare, nonostante il suo regista, malgrado il suo regista. L'intero universo si regge sull'incastro perfetto di tutte le cose. Se un pezzo si rompe, anche il più piccolo, l'intero universo si rompe. E quelle che abbiamo sentito sono le parole piene di saggezza della piccola protagonista di Re della Terra Selvaggia, titolo originale Beasts of the Southern Wild, bestie del sud selvaggio. Insomma, è un film che ha stregato chi ha dato, appunto, che ha deciso all'Academy le nomination per i prossimi Oscar, diretto da Ben Zeitlin, sceneggiato dallo stesso regista con Lucy Albar, interpretato da un manipolo di attori non molto conosciuti, su cui spicca questa ragazzina, questa bambina vera e propria, il cui nome semi-impronunciabile è Kwezane, spero di averlo detto bene, Wallis, che però si è beccata una nomination agli Oscar. È la storia di una comunità, innanzitutto, quella di una comunità Bayou chiamata Bathtub, che vivono, vive nel profondo sud della Louisiana. Siamo negli Stati Uniti, appunto, del sud, al di là di una diga, in mezzo alle acque, baraccopoli più o meno di fortuna, che devono fare costantemente i conti con l'elemento della natura, con l'elemento terrestre, che siano i forti temporali, che siano gli animali. Insomma, è una comunità almeno estrema, possiamo definirla. Cosa succede? Succede che la bimba ha un rapporto con il padre durissimo, anche questo selvaggio, ma attenzione, non privo di amore, tutt'altro, un rapporto fortissimo con il padre malato. È il racconto di una comunità irredenta. Quello che sta succedendo è che la temperatura della terra è in aumento, i ghiacci iniziano a sciogliersi, sconvolgimenti che danno vita a un numero sempre superiore di cicloni, tempeste, grossi fenomeni naturali, e che fanno aumentare il livello delle acque, liberando nell'immaginario di questa bambina creature preistoriche chiamate Aurox. Quando il padre della piccola Hush Puppy si ammala gravemente, lei parte con la sua forza di re della terra selvaggia, con la sua solitudine, alla ricerca della madre. Per ogni animale che non aveva un papà a metterlo nella barca, la fine del mondo era già arrivata. Winston! Hey, Winston! Sono tutti giù nel fondo che cercano di respirare attraverso l'acqua. E allora, Camera d'Or al Festival di Cannes dell'anno scorso come migliore opera prima in assoluto. Gran Premio della giuria Sundance e adesso nomination, 4 nomination agli Oscar. Boris, un film sorprendente, spiazzante, qualcosa di estremamente originale, fra le cose più originali che abbiamo visto capitare dalle parti dei nostri schermi negli ultimi anni. Viene quasi da chiedersi cosa ci faccia la nota degli Oscar, ma invece sappiamo che anche gli Oscar, intelligentemente, da anni hanno sposato in un certo senso la causa del cinema indipendente, comprendendone la potenzialità di volano narrativo, di innovativo rispetto a come si fa il cinema. E questo potrebbe essere davvero il film della consacrazione di questo concetto. Sì, assolutamente, un film meraviglioso, buffo che nella nostra trasmissione venga dopo il film più prevedibile degli ultimi anni, venga appunto il film più originale, che è questo Re della Terra Selvaggia, che è una poesia che racconta tutto del nostro mondo, perché dà messaggi politici, quella diga che divide la terra ricca e bianca da quella allagata e nera, racconta tutto il conflitto di classe ed economico del nostro mondo, quei ghiacci che si sciolgono e quella ragazzina che come un animaletto si inserisce dentro un ecosistema, non credendosi superiore ma semplicemente cercando di adattarsi a tutto quell'ambientalismo che raccontiamo in molti altri film. Insomma, c'è tutto, e c'è però anche l'amore tra un padre e una figlia, l'amore di una comunità solidale che cerca di aiutarsi anche quando non ha più nulla, e lo si vede forse nella scena finale, che è estremamente commovente. E poi c'è questo Ben Zeitlin che con meno di 2 milioni di dollari riesce a usare gli effetti speciali come facevano in passato, insomma, non col digitale, ma magari mettendo un costume su dei maialini vietnamiti e facendoli diventare dei mostri mitologici. C'è un regista che ha un immaginario straordinario e che non ha paura di sembrare ingenuo per stupire lo spettatore, per raccontare una storia fantastica, nel vero senso della parola. C'è un regista che in qualche modo, secondo me, ha cambiato la grammatica del cinema moderno con questo film e che mi auguro che continui a farlo. Di sicuro il fatto che ci sia Gwendolyn Wallace tra le migliori attrici, che potrebbe diventare l'Oscar più giovane in quella categoria, il fatto che ci sia lui tra il miglior film e la miglior regia, segna secondo me un cambiamento anche rispetto a quegli Oscar che già negli ultimi anni, da Crash in poi, da Crash tipo Legacy in poi, avevano guardato il cinema indipendente, perché qui non guardano solo il cinema indipendente, qui guardano un nuovo modo di fare arte. A mio parere questo è uno dei film più belli degli ultimi 10-20 anni e come tale deve, spero, sia trattato nella notte degli Oscar. E allora questo è appunto Re della Terra Selvaggia, come diceva Boris, miglior film, miglior regia, miglior attrice protagonista e miglior sceneggiatura, sono le quattro nomination, insomma tutto quello che ci può essere di importante negli Oscar c'è stato. Il momento di giocare ancora insieme, seconda traccia del game di oggi. Puoi andare alla partita, al teatro e al cinema gratis. Già. E entrare negli spogliatoi e nelle toilette delle signore. Ok. Andare in giro nudo quanto ti pare. Lo sono quasi adesso. Non hai più da preoccuparti se la gente ti dice che invecchi o che metti sul pancia. La Rosa Purpurea @radio24.it. Avete indovinato di che film si tratta? Scrivetecelo col vostro indirizzo. Provate a vincere il Blu-ray di questo film. Più tardi l'ultima opportunità. Non ci credi a questa storia? Osama Bin Laden. Sì. E come ti sei convinto? Guarda che sicurezza. Se è vero, tutto il mondo vorrà esserci. Non lo troverete mai. Non si sa dove sia finito. E invece non è andata così, non è andata così con la caccia a Osama Bin Laden, la vera ossessione e da un certo punto di vista anche frustrazione del mondo occidentale per 10 anni, fino a quando poi non accadde lì a Abbottabad quello che accadde. Una specialista di questo tipo di cinema ormai, Catherine Bigelow, ce lo ricorda in Zero Dark Thirty, il film che dopo averci raccontato come si muovono i militari all'interno della lotta al terrorismo con The Art Locker, lo fanno questa volta parlando di intelligence che si scontrano, da una parte quella appunto della CIA, dei servizi segreti occidentali, del tentativo di raggiungere questa meta, questa preda inseguita per 10 anni, dall'altra la preda che invece ha una sua intelligence che è riuscita a mettere insieme qualcosa di difficilmente scovabile. Eppure così è andata. La regista Catherine Bigelow segue la storia di una persona, una giovane ufficiale della CIA, Maya, appunto interpretata da Jessica Chastain, un'altra delle attrici ormai consacrate, ormai di primissima linea nel cinema hollywoodiano, americano e occidentale in genere. La storia di Maya, dicevamo, il suo intuito, la sua forza, la sua determinazione per lavorare su questo obiettivo, la sua abnegazione anche quando si capisce che forse, diciamo così, Washington non è così vicina, non è così attaccata, se non quando deve fare le pulci, fare le relazioni e dirci che siamo ancora lontani dall'obiettivo. Esistono due versioni sul rifugio di Osama Bin Laden. Quella più conosciuta è che Bin Laden si nasconda in una caverna nelle aree tribali, circondato da numerosi seguaci a lui fedeli. Ma questa versione può essere valida solo fino all'11 settembre. La seconda versione è che viva in una città. Una città che offre molte vie d'uscita e da cui è possibile comunicare con il resto dell'organizzazione. Non si possono impartire ordini a una rete globale da una caverna. E allora, Boris, un film imperdibile a mio modo di vedere, appunto perché racconta questa ossessione, lo fa con un taglio che a volte sfiora il documentario, con una precisione anche della regia, che ovviamente Catherine Bigelow ci ha abituato a mostrare. Un film che paga il debito, diciamo così, con questa ossessione forse. Il racconto è quasi catartico, no? Rispetto a quello che è stato appunto per l'Occidente la caccia e poi l'uccisione di Osama Bin Laden. Beh, l'ossessione che il mondo, come hai detto tu, ha vissuto in qualche modo doveva essere raccontata e forse lo doveva raccontare chi comunque in questa sua seconda parte di carriera, come Catherine Bigelow, ha saputo raccontare meglio di chiunque altro la guerra sporca in cui è entrato, la guerra mondiale sporca, sotterranea, in cui è entrato il mondo dopo il 2001. Lo ha fatto mettendoci nei panni di quei soldati in The Art Locker che all'inizio ci sembravano dei pazzi e alla fine comprendevamo perché ne vivevamo la tensione, la paura, la sensazione di essere completamente braccati, e finiamo per capirlo anche con questa Maya, che in fondo è semplicemente una donna che ama il suo paese, probabilmente lo ama troppo, probabilmente ha dato a Bin Laden tutte le colpe di una vita che è cambiata in tutto il pianeta, e che decide di rinunciare a tutta la sua vita, a tutti i suoi sentimenti, a ogni cosa che non sia la ricerca di questo super criminale, di questo super terrorista, di rinunciare a qualsiasi cosa per questo. Ed è un racconto incredibile, perché come dici tu, c'è del documentario, penso alla parte finale, quella in cui proprio si scova Bin Laden, che ha un understatement incredibile, che sembra veramente averci portato all'interno di quella missione speciale, ma che allo stesso tempo è un grandissimo film. Devo dire che agli Oscar quest'anno sono stati fortunati o sfortunati, perché dovranno scegliere tra film meravigliosi e Chiunque perderà avrà di che recriminare, perché parliamo di capolavori, non ho paura a dirlo. E in questo caso Zero Dark Thirty, a mio parere, ha la forza di Hurt Locker con più epicità, con più forza, anche grazie forse a questa Jessica Chastain, che è uno dei migliori talenti in giro in questo momento. Io penso semplicemente a quanto sia brava Catherine Bigelow, un po' come faceva anche Spielberg in Lincoln, a raccontarci l'America senza fargli sconti, cioè a raccontarci in fondo un'impresa epica, secondo gli americani, quella di aver catturato Bin Laden, ricordando a tutti gli americani che lo si è fatto anche attraverso la tortura, anche attraverso una gestione dell'ordine pubblico internazionale molto spregiudicata, e non dà giudizi, perché in fondo probabilmente le due cose sono inscindibili, non si sarebbe trovato senza quei metodi, e questa è una cosa con cui dobbiamo avere a che fare, cioè se vogliamo esportare la democrazia probabilmente ne dobbiamo tenere un po' anche per noi, anche a costo forse di lasciare a piede libero l'uomo più pericoloso del pianeta. E queste sono le domande a cui ci mette di fronte Catherine Bigelow, lo fa con la solita regia straordinaria, lo fa con questo Mark Ball, compagno o ex compagno, non si è capito, che con cui ha trovato una nuova giovinezza in tutti i sensi, anche di scrittura per il cinema, e ci troviamo di fronte, secondo me, a un film veramente interessante, molto molto bello, e che forse riesce a dare una parola definitiva sul post 11 settembre come nessuno era riuscito a fare prima di lei. Grazie allora Boris, appuntamento la prossima settimana. Grazie, alla prossima. Eccoci al momento di dare un'occhiata ai palinsesti della prossima settimana in televisione per scovare capolavori da vedere e rivedere. Insieme agli amici del settimanale Film TV saluto già Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco e ben ritrovati con le nostre segnalazioni. E allora cominciamo subito con la prima segnalazione. Martedì 12 febbraio su Rai Movie alle 23:20 un film molto molto particolare, come Cannibal Love mangiata viva. Sì, martedì 12 su Rai Movie alle 23:20, Cannibal Love mangiata viva è il titolo italiano stupidotto dell'originale Trouble Every Day. Claire Denis, una delle autrici francesi più sfuggenti e radicali, gira un film di vampiri, ma è tutt'altro che un film di genere. È una sinfonia urbana di solitudini che si incrociano, un concerto di corpi che si scontrano, pieno di istanti insostenibili di violenza. Ci sono personaggi che sono incapaci di parlare un linguaggio comune, e quello che conta in questo cinema infatti sono i corpi, un cinema che non spiega nulla, che mostra i problemi e non li risolve. È un cinema erotico perché è sensoriale, surrealista e pieno di ellissi, e va oltre le logiche della nostra ragione. Soundtrack meraviglioso dei Tindersticks. Ricordiamo l'appuntamento martedì 12 febbraio alle 23:20 su Rai Movie. Giovedì 15 invece, nel pomeriggio alle 15:15 su Iris, il film di Gianni Amelio, uno dei film più interessanti di Gianni Amelio, Così ridevano. Sì, giovedì 14 su Iris alle 15:15, dal 1958 al 1964, una discesa nel baratro degli affetti e nelle vergogne dell'Italia, attraverso la storia del rapporto tra due fratelli. Più intimista e molto meno sociale di quanto molta critica abbia inteso, il film di Gianni Amelio, Leone d'Oro alla Mostra di Venezia nel 98, sfiora Visconti e il mito di Rocco e suoi fratelli, si indigna per le condizioni dell'emigrazione dal sud al nord e soffre sul rapporto tra i personaggi. Diviso in sei capitoli, sei giornate nell'arco di sei anni, racconta più con la forza delle immagini che con le parole, ed è pieno assolutamente di momenti da brivido, ed è a mio avviso il film più bello del regista. E allora appuntamento appuntamento giovedì 15 febbraio alle 15:15 su Iris con Così ridevano. Grazie a Giulio San Giorgio e alla redazione di Film TV. Grazie, buon saluto ai radioascoltatori. E siamo arrivati alla terza e conclusiva traccia del game di oggi. Ascoltate questa clip. Io non diventerò una spia. Se noi avessimo avuto un agente invisibile nel 1939, forse non ci sarebbe stata la Seconda Guerra Mondiale. Che stai dicendo? Che io avrei ammazzato Hitler per voi? La Rosa Purpura è @radio24.it. Stavolta abbiamo detto davvero, davvero tutto per questo film. Vi ricordo il vostro indirizzo di posta per agevolare la spedizione del film che il più bravo e veloce del sabato e della domenica riceveranno. Settimana prossima sveleremo titolo e vincitori. 7 giorni fa invece avevamo giocato così. Sono innamorato di lei. Lo so. Mi dica onestamente, mi dica sinceramente se quel che credo è vero. E cosa crede? Che per lei è lo stesso. Anche lei è innamorata. Ma è ridicolo. Perché? La conosco appena. È vero, però mi dica. Sì, è vero. E allora si trattava di Breve Incontro, il grande capolavoro di David Lean. Era stato un game davvero molto molto difficile, però abbiamo avuto, come sempre, ascoltatori all'altezza. Marco Salzano di Napoli, Daniela Vender di Parma, che riceveranno il Blu-ray di questo straordinario film, storia di un amore, diciamo così, fedifrago, adultero, che si ferma proprio sul limite. Claudio, edizione in Blu-ray, Claudio Pofi ovviamente, che saluto e che è già in collegamento con noi, edizione in Blu-ray di Breve Incontro per riassaporare questo grande capolavoro. Sì, certamente Franco, è di Pulp Video, la prima edizione italiana in alta definizione dedicata a questo struggente film di David Lean, dalle origini teatrali, tra l'altro datato 1945. È un Blu-ray di notevole qualità, con un eccellente bianco e nero, veramente superbo, traccia Dolby Digital multicanale, remixata per l'occasione, non è granché sinceramente. Io consiglio di privilegiare le due tracce monofoniche italiano e inglese, quelle originali dell'epoca. Come extra, oltre a una fotogallery, segnalo un interessante documentario di 24 minuti che ripercorre la produzione del film. E allora, questo appunto Breve Incontro, il game della scorsa settimana. Ora andiamo alle recensioni, alle novità in un video. E avete visto come la politica, anche americana, tra l'altro settimana prossima sarà anche la volta di quella italiana con il bellissimo Viva la Libertà di Andò con Servillo, ma ne parleremo a tempo debito. Dicevo come la politica stia permeando questa fase, non è un caso, su tutti i profili. Grande schermo, un video arriva nelle videoteche, candidato a sorpresa, uno dei film più interessanti e divertenti di questa stagione. È la più grande notizia che abbia mai ricevuto! Non ci posso credere! Per tanti anni ti ho pregato di farmi entrare in politica ed ecco che ora succede! Pensavo non sapessero neanche chi fossi! I fratelli Moccia, posso dirti questo. Sarai fiero di me, te lo prometto. Sarai molto fiero. Direi che ci sono zero probabilità che tu mi renda fiero. Tuo fratello Trip è il mio capolavoro. Ma tu mi sembri un hobbit cacato da uno che ha problemi di stipsi. Politico corrotto, ignorante e privo di scrupoli, nonostante i passi falsi, Cam Brady non ha dubbi sulla sua riconferma al congresso della Carolina del Nord. Il guaio è che due fratelli miliardari, che non vedono l'ora di arricchirsi ancora di più svendendo lo Stato ai cinesi, hanno individuato nell'ingenuo idealista Marty l'ideale candidato manipolabile a loro piacimento. Per Cam e Marty inizia così una lunga campagna elettorale forgiata al ritmo dei colpi più bassi. Semplice ma efficace nella messa in scena, il film dello stesso regista dei due Austin Powers sa come intrattenere, forte tratto della presenza di due notevoli caratteristi come Will Ferrell e Zach Galifianakis, ma nel cast c'è anche Dan Aykroyd. Da Warner Home Video l'edizione DVD, ma soprattutto Blu-ray, quest'ultimo con una qualità di immagine da sala cinema, audio Dolby Digital multicanale per l'italiano, è identico al DVD, superiore all'originale DTS ad alta risoluzione. Tra l'altro il Blu-ray offre su un solo disco la versione cinematografica più quella estesa, con 10 minuti inediti, ma tra le versioni ascoltabili solo con audio inglese o tedesco e sottotitoli. Come extra ci sono sequenze inedite, 9 scene tagliate ed errori sul set, inclusa la copia digitale. Invece una storia di serial killer tassinaro e rapitore, quella di Chained. Se bussa qualcuno, ma non busserà nessuno. Se rubi qualcosa, verrai picchiato. Se cercherai di scappare oppure non terrai pulita la casa, verrai picchiato. Se mi farai innervosire o mi capiterai tra i piedi quando non devi, verrai picchiato. D'ora in avanti, questo sarà il tuo mondo. Bob è un feroce serial killer che miete vittime sfruttando il lavoro di tassista, vittime come Sara e il figlio adolescente, adescati all'uscita dal cinema. Eliminata subito la donna, Bob decide di non uccidere il ragazzo, schiavizzandolo e mettendolo al proprio servizio, sicuro che nessuno potrà mai avvicinarsi alla sua isolata e comune abitazione. Figlia del regista di culto David Lynch, Jennifer, nel bene e nel male, è un'artista lontana dal cinema paterno, rimanendo fino ad oggi in un territorio comunque grafico e violento, come in questo suo quarto drammatico film, quello sicuramente meglio riuscito di tutti, raccontando di una relazione umana estrema, forgiata tra abusi e violenza non solo fisica. Da Koch Media, all'uscita di DVD e Blu-ray, quest'ultimo di eccellente qualità, una doppia trancia di TS ad altre soluzioni italiano-inglese sono entrambe notevolissime, come extra abbiamo solo il trailer. E allora questo era Chained, grazie al nostro Claudio Poffi, appuntamento alla prossima settimana. Ciao, a presto! Allora, le note della sigla, come sempre, ci accompagnano verso la chiusura del programma. Noi vi ricordiamo la nostra pagina Facebook, comunità sempre più numerosa, quella della Rosa Purpura, sempre più connessa anche durante la settimana con il podcast della trasmissione, con le vostre domande, le nostre risposte, i vostri pareri sui film che vedete, i consigli, le classifiche, insomma tutto quello che possiamo fare su Facebook. E allora cliccate mi piace, la Rosa Purpura a Radio 24, la trovate subito e unitevi a noi. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Pietro Lacorte in regia, appuntamento alla prossima settimana.